tempo solo, ma sempre più giù. Benvenuti a Dedicato! Allora, oggi è una puntata speciale perché abbiamo una compagnia con noi che è Beatrice Sarti. Ciao Bea, benvenuta! Buongiorno a tutti! E Beatrice è con noi perché oltre a essere un'amica e di poco tempo in realtà dal vivo, ma di tanti anni perché ci conosciamo per vie traverse, e l'ho conosciuta poco tempo fa e abbiamo parlato però della sua professione, del suo modo di affrontare la musica, che è la nostra professione, quindi è una cosa che ci lega e che abbiamo in comune da sempre praticamente. Lei ha sviluppato un metodo specifico e molto particolare sul canto, che non è quindi il solito approccio al canto che si può avere nelle scuole tradizionali o nei conservatori, ma è un metodo di canto posturale dove lei lavora anche interiorizzando la musica e il canto e utilizzando diverse parti del corpo. Mi stava raccontando adesso, ma preferisco poi lasciare a lei la parola su questo. Quindi canto posturale, c'è anche un metodo molto interessante che lei ha scritto, ma Bea, ci racconti un po' di cosa si tratta? Volentieri. Allora, diciamo che io ho iniziato a cantare all'età di 8 anni e parallelamente ho iniziato a suonare prima il violino e poi il violoncello, e mi sono fatta poi varie domande, nel senso che sia il violoncello che il violino hanno un'anima all'interno dello strumento, è insita anche in noi, nel senso che quando cantiamo noi abbiamo le corde vocali, come ci sono anche negli strumenti appunto a corda citati prima, ma abbiamo anche tutto un contorno che, se faccio un esempio, nel violoncello ci mettiamo un pezzo di Scottex, il violoncello non suona come dovrebbe suonare. Certo. E quindi mi sono basata sul fatto, girando poi nella mia vita 36 insegnanti di canto lirico, mi sono chiesta quanto fosse importante soltanto la parte dell'apparato, cioè quindi corde, bocca, maschera, palato, eccetera, ma quanto invece fosse importante sciogliere le altre parti del corpo, come avviene poi negli strumenti, nel senso che poi quando suoni il violoncello, se c'è umidità, se non c'è umidità, c'è tutto un lavoro da fare anche della salvaguardia dello strumento. Certo, e la stessa cosa avviene, a parer mio, nella parte del canto, insomma, del corpo. Infatti spesso si parla di diete, addirittura nel canto lirico, cosa mangi, cosa non mangi, mangi prima, mangi dopo, cioè c'è proprio, è come se il cantante fosse praticamente un atleta, no? Questo lo ritroviamo anche negli strumenti, perché chiaramente se ti fai delle nottate, il giorno dopo hai un concerto, il corpo sarà più in difficoltà. Certo, cioè, assolutamente. E da lì ho fatto una ricerca che si basa su micro esercizi che avvengono al di fuori del corpo, principalmente con le mani, che sono all'interno del libro, che è appunto il libro di metodo di canto posturale, e con questi esercizi, già parlando e facendoli, non cantando, la voce praticamente ottiene dei benefici. Sono esercizi che è importante guardare con gli occhi, tuttavia ho sperimentato anche questi esercizi su allievi non vedenti e funzionano lo stesso, probabilmente perché si va lo stesso nell'immaginario a modificare cose che avvengono all'interno del corpo. Faccio un esempio, c'è un esercizio in cui con la mano destra faccio una C con l'indice e il pollice, in quella maniera se il mio palato di solito è abituato a essere basso e non vado verso gli acuti, solo facendo questa C la voce va negli acuti, perché a livello neurologico se tu guardi una C non riesci a schiacciare il palato, cioè diciamo è un modo, certo, per modificare delle situazioni all'interno del corpo senza dire come si fa di solito con gli insegnanti di canto lirico, gira il suono, che uno poi gira il collo, gira tutto, gira. E poi non gira neanche il suono, ecco, faccio vero. L'esempio. Ma infatti la cosa particolare delle classi di canto è che si vedono appunto questi gesti, questi movimenti che i cantanti hanno iniziato a fare, perché una volta appunto non era così assolutamente, c'era questo gira il suono e tu dici che devo girare, perché proprio io con i tamburi gira il suono, mi viene da pensare lo accordo con la chiavetta, no? Ma nel mio corpo cosa accordo, come lo faccio? E invece ci sono questi piccoli gesti che aiutano, e quindi io nelle classi di canto vedo spesso sbadigliare, vedo spesso questa C che raccontavi tu, e adesso piano piano si sta iniziando a capire anche questa cosa, però effettivamente è, devo dire, sia innovativa che all'avanguardia. Questo tuo metodo è così, perché non è ancora, come dire, approvato dai cantanti, e quindi bisogna imparare a conoscersi molto meglio. Allora io manderei un brano adesso e poi ci ritroviamo a fare altre due chiacchiere. Un paso me voy para siempre, un paso fuerte, un paso hacia adelante. Dos pasos me voy sin mirarte, tan lejos pisé. Dos pasos y ya te olvidé. Tres pasos ya son hacia el este, el sur, el oeste. Tres pasos creo mucho me parece. Y cuando volverás, je ne reviendrai pas. Cuando volverás, je suis si loin déjà. Cuando volverás, un día o jamás. Y cuando volverás, j'ai fait le premier pas. Cuando volverás, et tu ne m'attends pas. Cuando volverás, un día o jamás. Cuatro pasos quiero acordarme, cuatro pasos ya sé. Tú me quisiste, yo te quise. Cinco pasos ya sin perderme, tanto me alejé. Cinco pasos y te perdoné. Seis pasos ya son casi siete, contar más no sé. Mil pasos y más me quedo de pie. Y cuando volverás, je ne reviendrai pas. Cuando volverás, je suis si loin déjà. Cuando volverás, un día o jamás. Y cuando volverás, si tú no m'attends pas. Cuando volverás, j'ai fait le premier cuando pas. Volverás, tornati in studio. Allora, abbiamo ascoltato Mil Pasos di Soa, è una scelta di Beatrice Sarti, che è qua con noi ospite in puntata oggi, quindi grazie per questa scelta, un pezzo bellissimo. E intanto, come mai hai scelto questo pezzo? Allora, è un pezzo che mi piace molto la parte ritmica, no? Nel senso che c'è questa idea del passo, no? Che comunque la vita è un passo dopo l'altro, anche di esperienze. Se si può pensare a una vita camminando in avanti, qualsiasi errore facciamo acquisisce soltanto esperienza, no? E non diventa un qualcosa di difficoltoso da accettare. E così vedo pure il canto, no? Il canto è una proiezione di noi, è una proiezione che non ci abbandona, è una proiezione che comunque in qualsiasi momento storico, anche questo insomma che è un momento storico dove appunto ci sono guerre, no? Non abbiamo una situazione mondiale eccezionale, però la musica e il canto e tutto ciò che ci porta in avanti è un po' una speranza nella nostra vita per affrontare le situazioni sempre non in una maniera distruttiva, non dico con gioia, però in una maniera costruttiva. E così dovrebbe essere anche lo studio del canto, cioè una costruzione di noi stessi, no? Dove non c'è una separazione tra noi e la voce, perché poi la voce è la prima cosa che perdiamo, ma è anche la prima cosa che abbiamo, perché se pensiamo alla gestazione, di quando siamo nella pancia della mamma, le due cose fondamentali sono l'acqua, che è il liquido appunto che ha la madre nel corpo, quindi il nuotare all'interno della pancia della mamma, e la voce della mamma, la voce delle persone fuori, diciamo, è il primo contatto che abbiamo prima della nascita. E poi quando nasciamo, il pianto, il primo vagito, no? Nel senso, certo, è comunque il primo contatto che abbiamo con il mondo, quindi pensare a una vita senza voce è difficile, no? Per me, sì, insomma. Assolutamente sì, anche perché è il modo più facile che abbiamo per comunicare. Poi ne abbiamo tanti altri, perché anche con lo sguardo, con l'intenzione dei gesti del corpo sicuramente si comunica, però io penso adesso invece da attrice più che da musicista la voce è l'immediatezza della comunicazione, quindi anche in radio noi non ci vedono, ci ascoltano, quindi effettivamente se non avessimo la voce in radio sarebbe molto difficile farsi capire, no? Perché hai voglia con le espressioni, ma in radio adesso ci sono alcune radio che mandano anche i video degli speaker in trasmissione, ma nel caso nostro non è così e quindi sarebbe impossibile comunicare. Quindi la voce come mezzo di comunicazione è una cosa molto interessante che anche io ho studiato tanto negli anni. Però volevo anche chiederti, questo tuo metodo di canto posturale, cioè se io completamente ignorante voglio approcciarmi a questo percorso e pensare magari di conoscerti e di cominciare, da che cosa si parte? Qual è il primo step per capire il canto posturale rispetto a una lezione di canto dove magari io vado e mi fanno cantare una canzoncina, fare qualche vocalizzo con degli arpeggi e poco più? Ecco, che differenze ci sono e qual è il primo step? Allora, nella mia ricerca io ho fatto una ricerca sulle due parti, la parte destra e la parte sinistra, però più a livello di ascolto, di orecchio, che a livello neurologico. Dietro l'orecchio destro ho scoperto che c'è un ricettore che, mettendo la mano destra aperta, si accende, no? Come un po' nella kinesiologia il muscolo, no? Cioè nella kinesiologia tramite il muscolo si va a comprendere lo stato della persona, su cosa intervenire. E io faccio la stessa cosa con l'orecchio destro, c'è un vocalizzo molto facile che è lì lì lì, sono due note do re mi, e da lì vado a vedere su cosa è bloccato all'interno della persona, quali parti del corpo sono bloccate. Faccio un esempio: è bloccata una spalla, lavoro con dei vocalizzi però abbinati a degli esercizi legati alla spalla. Poi è ovvio che se si fa una lezione di gruppo faccio degli esercizi generali anche di base su come respirare, quanta aria prendere, eccetera eccetera, però poi abbinerò su ogni persona degli esercizi specifici, perché chiaramente non siamo tutti uguali, ecco. Certo. Quindi ognuno, ci sono delle parti del corpo che sono per esempio in occidente bloccate un po' per tutti, tipo la mandibola, si tende tutti un po' a digrignare i denti nel notturno, cosa che per esempio non ho trovato in persone che vengono, non so, da Argentina, Cile, hanno, o persone insomma africane, per esempio, che hanno, ho fatto l'anno scorso un bel progetto in un punto alloggio, loro non hanno assolutamente problemi nella parte mandibolare, sono più aperti, no, in quella parte lì. Quindi è chiaro che poi anche il metodo va abbinato a chi hai di fronte e a chi... Certo, è anche una questione culturale. Culturale, sì, sì. Ed è molto interessante il fatto che sia così individuale, cioè così lavorato proprio sulla persona, perché invece le normali lezioni di canto sono un po' standard, diciamo, quindi sì. Uguali per tutti, devi sapere eseguire questo brano, per arrivarci ad eseguire questo brano bisogna fare un percorso che è quello che, esatto, l'insegnante impone. Invece nel tuo caso è molto diverso, insomma, il percorso. Sì, esatto. Poi ovviamente dipende anche da dove mi arriva la persona, perché io ho una collaborazione dal 2015 con vari psichiatri e psicologi e diciamo ci sono delle persone che mi portano delle tematiche e ci lavoriamo con il suono per sciogliere dei nodi e per cambiare un po' la frequenza della persona. E questo chiaramente è un lavoro un po' più canto-terapeutico, che però ottiene risultati anche sulla voce, perché se vai a sciogliere problematiche legate all'autostima, all'ansia, è ovviamente dopo la voce risuona meglio comunque. Certo. Cioè la finalità comunque del metodo è lo sblocco della voce. Poi se questo sblocco della voce ti aiuta anche a livello terapeutico, meglio, perché poi la musica è... Non ci dimentichiamo che è nata insieme alla medicina, no? C'era una correlazione nei tempi, certo, antichi. Bene, Bea, mandiamo un altro brano e poi ci ritroviamo di nuovo. Benissimo. Bene, allora, scelta musicale sempre di Beatrice Sarti, che è qui con noi, Maria Callas con Casta Diva, quindi insomma tanta roba, direi, non ci possiamo lamentare. E invece Bea, tu ovviamente, oltre che insegnante di canto, sei cantante prima di tutto, sì. Quindi che cosa hai cantato nella tua vita, intanto, questa domanda, cioè che repertorio, che stili di musica, che generi? Allora, principalmente barocco. Perché trovo che il barocco sia nella lirica la tipologia di canto più vicina a tutti gli altri stili, perché non utilizza la voce lirica in maniera troppo forte, no? Nel senso, utilizza la voce più naturalmente. Quindi ho fatto anche delle ricerche praticamente tra accompagnamento jazz pop misto al canto lirico per trovare delle sonorità differenti. Questo interessante, un bel percorso, anche perché poi non si sa in realtà se è nato prima il jazz con l'improvvisazione o se è nato prima il barocco con l'improvvisazione, oppure se magari non conoscendosi a distanza, certo, sono nati insieme. Sono nati, esatto. E quindi ti vogliamo ascoltare a questo punto. Benissimo, ci presenti un brano che allora, tuo... praticamente questo è un brano che è un brano barocco riadattato, e appunto quando facevo parte di questo gruppo Sour Sirens avevamo fatto misti di stile da Brecht fino a appunto al barocco, però riadattati. Quindi questo brano è un brano che ha delle sonorità diverse dalle sonorità classiche, però con la voce lirica magari un po' più leggera di quello che si può sentire quando vai a concerti anche di barocco, insomma. Ok, quindi lo ascoltiamo insieme, Lascia che io pianga. Benissimo, grazie. Lascia che io pianga, cantato da Beatrice Sarti, per l'appunto, che è qua con noi. Quindi adesso siamo alle fasi di saluto, perché siamo arrivati alla fine anche di questa puntata. E quindi intanto grazie di essere stata con noi, di averci raccontato un po' questo appunto canto posturale, che è un'idea tutta innovativa del canto e della musica. E poi grazie, ci siamo finalmente conosciute dal vivo e grazie di essere stata con noi a Dedicato. Grazie a voi e molto felice, tra l'altro avevo anche un po' insistito perché avevo sentito un po' le puntate, mi era piaciuto, quindi ho un po' insistito a... Ah, ecco, una cosa importante, se qualcuno ti vuole conoscere e fare lezione con te, con questo metodo di canto posturale, come ti trova? Perché questo è importante. Piuttosto facile, sono su Facebook facilmente e quindi uno mi può scrivere anche su Messenger, eccetera, eccetera. Ok. E poi vabbè, sono abbastanza pubblicizzato, quindi il numero si trova facilmente. E poi soprattutto se uno prima si vuole leggere il libro, così almeno ha un'idea anche di quello, certo, che faccio, insomma, se è interessato alla situazione. Bene, quindi se qualcuno vuole cercare Beatrice Sarti su Facebook, potete scriverle e io ve lo consiglio onestamente. Poi vedrete, toccherete con mano. Grazie. Ciao Bea, grazie, a presto. Noi ci sentiamo la settimana prossima, sempre alle 13, sempre su Radio Città Fujiko con Dedicato. Ciao! Ai suonatori un po' sballati, ai balordi come me, a chi non sono mai piaciuta, a chi non ho incontrato, chissà mai perché. Ai dimenticati, ai playboy.